Salva Danaio di Deborah Rosciani. Io me lo sento già, quella di oggi sarà una puntata con le bollicine, diciamo pure così. Quello di cui parliamo oggi, di cui anzi torniamo a parlare oggi, è uno dei casi letterari dell'anno. Abbiamo già qualche problema, non sentite già con la cuffia, adesso sabotaggio, la sistemiamo, c'è sabotaggio. Un sabotaggio. Aspetta Lorenzo, guarda, ti alzo, adesso cominci a sentire, hai visto che magia. È perché ti guido io da qua, dal centro del tavolo. No, ma perché io sono audioleso per definizione. Allora, fatemi fare un po' di ordine. Quello di cui torniamo a parlare oggi è sicuramente uno dei casi letterari dell'anno. È stato un vero e proprio caso umano, soprattutto. Quello è un altro aspetto, un problema che magari affronteremo nel corso della trasmissione. Un vero e proprio bestseller. Parliamo di Vaffanbanca, dai bond argentini ai mutui assassini, manuale di autodifesa economica e finanziaria e a rendimento garantito, edito da Rizzoli. Ebbene, per chi si è divertito con questo libro, che è uscito quando la crisi finanziaria, un bel colpo di fortuna, il vostro esatto deflagrava, sì, in ottobre, però, fortuna con la C maiuscola, bene, insomma, per chi si è divertito con questo libro che è uscito in ottobre, sappiate che a settembre esce il seguito. Poi non so se è un restyling o qualcosa di completamente diverso, il titolo è molto simile, perché avremo a che fare con Vaffancrisi, e oggi noi non potevamo non farci anticipare qualcosa dai due autori. Bentornato Lorenzo Marconi, analista finanziario specializzato nella consulenza per clientela istituzionale, patrimoni familiari. Lorenzo, fai tutto tu praticamente. No, però ogni tanto trovi anche un po' di tempo per molto, scrivere queste cose. Il sabato e domenica scrivo. E ti occupi anche di gestione, appunto, del denaro altrui. Quindi questo, sì, ti dà tutta l'autorevolezza anche per essere un po' un dissacratore su certi temi. Ma sì, certamente, diciamo, certi temi non li ho letti su un libro in spiaggia, ma li ho vissuti, per cui quello che caratterizza forse uno degli aspetti salienti mio e di Marco è proprio il fatto che comunque spesso raccontiamo del vissuto e non delle cose solo per sentito dire o riportate. Il gatto e la volpe, tu chi sei dei due? Ma preferirei fare il gatto, se ecco. Devo... E allora la volpe, perché quello veramente cattivo, Marco Fratini, nella stesura di questo testo. No. Gli avvocati hanno detto che non ci sono problemi. Benissimo, per quello che riguarda, sì, il primo è andato, adesso il secondo è stato ampiamente vagliato dal mondo legale, appunto, dai legali di Rizzoli. Marco Fratini, giornalista, caporedattore della Sette, oltre ad essere autore di questo libro, un amico da tanto tempo, abbiamo condiviso, l'abbiamo ricordato tante volte, per chi questo gossip non lo conosce, abbiamo condiviso anche un tavolo di lavoro per qualche anno in un'altra esperienza professionale. Mi fa molto piacere avervi di nuovo qui questa mattina. Sì, poi ce l'hanno un po' sfilato da sotto, ma insomma. Ma pazienza, questo è un tema che magari Marco e te racconteremo in un altro libro più avanti. Prossimo libro più avanti. Su che cosa vogliamo invogliare i nostri ascoltatori a chiamarci? Su che cosa vi sentite pronti a rispondere questa mattina? Diamo tutto. Qualche indicazione di borsa, perché voi, ricordo, anche avete una rubrica settimanale su Oggi, sì, e lì siete proprio espliciti su suggerimenti di investimento. Sì, l'importante, e io lo dico sempre, purtroppo capita che il concetto di esperto viene, come dire, assoggettato, associato a un concetto di infallibilità. Io lo dico sempre, non è eccesso di umiltà, ma è sano realismo. Noi spesso ci prendiamo, come si dice in gergo, e qualche volta... Siamo guru! Esatto, mai, non siamo guru, parola, fenomeni, e per cui qualche... Non vogliamo essere confusi con chi ha il dono dell'infallibilità. A me piace onestamente, come dire, collocarmi nella parte di chi crea portafogli ottimali, o comunque crea delle asset allocation partendo dalla centrale del cliente, piuttosto che vorrei un po' affrancarmi da quel ruolo di analista dove compra le Fiat, vendi le generali, anche se onestamente sappiamo tutti che la clientela, comunque anche i nostri radioascoltatori, molto spesso vuole solo il sangue, quello. Esatto. No, non bisogna confondere l'informazione con la consulenza. Chiaramente Lorenzo di mestiere fa il consulente, ma quando scriviamo siamo esclusivamente informatori, magari non siamo deformatori, ecco, questo magari è il piccolo valore aggiunto di indipendenza che ci piace sempre ricordare, devo dire anche i nostri lettori su questo, ci sostengono, lo riconoscono. Marco, quando vi ho invitato l'altra volta era in piena promozione il vostro libro, era uscito proprio in quel periodo e noi l'abbiamo chiamato colpo di fortuna. In realtà è uscito proprio quando la crisi finanziaria, di cui ancora stiamo pagando le conseguenze, di cui ancora stiamo vedendo tutti gli effetti, era proprio scoppiata, perché era fallita Lehman Brothers, per cui insomma i risparmiatori si stavano leccando le ferite per tanti danni che la crisi in quel momento stava facendo, ma ancora, dicevo, le conseguenze le stiamo vedendo. Che punto siamo della crisi secondo te? Ma la domanda che bisognerebbe farsi e che tutti si fanno è quando usciremo dalla crisi? Come si esce dalla crisi? In realtà la domanda più giusta che bisognerebbe farsi è quando siamo entrati in crisi? Perché l'impressione che abbiamo sempre avuto, e peraltro un po' nel secondo libro ne abbiamo parlato, anticipazione, è che non ci abbiano detto che stavamo entrando in crisi e che eravamo già con un piede fino alla caviglia dentro. E questo ci ha creato una situazione emotiva ancora di buona disponibilità verso, per esempio, l'indebitamento, tanto per fare un esempio, no? Verso anche l'acquisto di oggetti inutili e qualche volta anche di prodotti finanziari potenzialmente, abbiamo visto, molto rischiosi. Siamo entrati in crisi molto prima di quanto ce l'abbiano detto. Quindi la speranza è che magari ne usciremo un po' prima di quanto non ci dicano, perché poi un po' noi ce l'abbiamo con i mezzi di informazione. Hanno fatto molta deformazione, molto allarmismo. Noi l'abbiamo brutalmente, crudelmente, dobbiamo dire, chiamato effetto Cogne, però l'impressione è che si sia stati sempre lì e mai a Wall Street. Abbiamo sempre raccontato una storia cercando, come dice Lorenzo, il sangue e un po' probabilmente infischiandocene delle grandissime reazioni che questo ha provocato a livello nostro, cioè di noi gente della strada, che ci siamo veramente preoccupati, terrorizzati, quindi probabilmente magari ne usciremo prima di quanto non dica il grande quotidiano nazionale, sì, non il vostro. No, tra l'altro io volevo sentire su questo punto proprio Marco, ma anche te adesso Lorenzo, ho anche un'altra domanda per te, perché ho incontrato Marco in un'altra trasmissione qualche settimana fa e so che lui è molto attento a quello che succede all'interno dei supermercati, cioè all'aspetto reale, non tanto finanziario, di questa crisi. Ma sì, noi ce la giochiamo un po' da uomini della strada, è chiaro che noi siamo persone che hanno famiglia, vanno a fare la spesa, e l'invito era anche ai professori, no? Andate a fare la spesa un po' più spesso, perché a me aver sentito i professori che non hanno... hanno ciccato tutte le previsioni, averli sentite dire che sono vittime del pensiero dominante, per cui se uno avesse tentato di dire che le situazioni erano un po' più pericolose, più rischiose di quanto sembrasse, ma andare contro praticamente l'onda, la marea, li avrebbe messi fuori come si fa con le Cassandre, mi ha un po' stupito. Cioè, quale potenziale accademico, didattico, di insegnamento può avere un professore che ha paura di spingere sulle proprie convinzioni? E poi questa storia delle statistiche, qui Lorenzo è più bravo di me, le statistiche quando arrivano sono vecchie, sono morte, non possiamo basarci la nostra vita, le nostre previsioni da qui a 6 mesi, quando arrivano sono già vecchie. Ma Lorenzo, qual è, come dire, il mondo finanziario che sta venendo fuori allora dalla crisi? Un mondo che mette in discussione le statistiche che si riferiscono ai mesi passati, e tra l'altro abbiamo in corso di evoluzione una crisi che è stata talmente dirompente e così veloce che davvero, come Marco dice, il valore delle statistiche si è perso completamente. C'è gente che ha perso il lavoro, per cui stiamo attenti quando parliamo. Certo. Cioè, statistica sì, ma anche grande realtà e purtroppo brutta. Ma infatti, Lorenzo, secondo me bisognerebbe partire da... realtà della crisi e percezione della crisi. Certamente sul concetto di percezione, purtroppo spesso, come Marco ed io abbiamo sottolineato nel secondo libro, la crisi non ci ha solo coinvolto ma ci ha travolto. Adesso abbiamo visto trasmissioni televisive con il display del crollo di Wall Street alle spalle del conduttore, ci aspettavamo il plastico di Wall Street da Bruno Vespa come nella villetta di Cogne. Insomma, diciamo che non possiamo, pur nel rispetto di chi è veramente in difficoltà, come diceva Marco poc'anzi, di chi ha perso un lavoro, insomma di aziende in crisi, l'elenco è abbastanza noto, però io credo che in queste situazioni il concetto più ampio di educazione finanziaria, anche dal punto di vista psicologico, debba farla da padrone. Adesso io non voglio fare della piaggeria, però sicuramente tu hai un collega come Marco Liera che su Plus 24 direi che fa un bellissimo lavoro di educazione finanziaria settimanalmente, tu stessa con la tua trasmissione. Ci sono tanti, chiamiamoli colleghi, che si occupano in prima linea di finanza, che hanno capito gli aspetti legati alla psicologia, quindi alla finanza comportamentale, e non solo legati al mero aspetto tecnico, perché spesso e volentieri si dà troppa attenzione alle technicality dei prodotti finanziari, alle technicality dell'aspetto operativo e si lascia un po' da parte tutto l'aspetto psicologico. Invece noi dobbiamo saperlo che le scelte finanziarie dei risparmiatori sono comunque volenti o nolenti condizionate da un pathos emotivo, da un aspetto emotivo dominante nelle proprie scelte. Il problema è anche trovare il consulente finanziario che sia in grado di accompagnarci in questi percorsi e guidare anche la nostra emotività. il problema è, Marco, io ripeto quello che ho risentito di te ieri andando a spulciare tue interviste vecchie, apparizioni pubbliche, anzi, che avete fatto insieme nei mesi passati. No, il tema è che si va spesso in banca, ovviamente, per cercare questa consulenza, perché è, come dire, quasi l'unica alternativa che si ha, che portafogli medi hanno. Però tu ieri proprio mi è rimasta impressa questa tua considerazione. Ricordiamoci che la banca è un negozio, non è una chiesa. Sì, questo è uno dei nostri cavalli di battaglia. Adesso li cambieremo, perché chiaramente non li scopriamo tutti, perché dobbiamo tornare qua tra settembre e ottobre. Ma la questione della banca è... non vogliamo continuare a insistere, perché poi dopo teniamo famiglie e dicono che siamo contro le banche. In realtà non siamo assolutamente contro le banche. Anche perché poi non credo che voi, come dire, abbiate un conto corrente in un posto diverso, su Marte, o su che cosa. Quindi diciamo, anche a voi serve, certo. Quindi in Italia però aver detto vaffanbanca è stato un po' come togliere il crocifisso dalle scuole. È un po' so che si è infastidito il mondo bancario. Sostanzialmente si potrebbe essere contro qualche banchiere, ma non contro la banca. Perché siamo tutti uomini e ci sono uomini che fanno quel mestiere, che hanno sbagliato, che però sono sempre lì. Però questo mi prendo io la responsabilità di averlo detto. Uno dei capisaldi, secondo me, della ripresa dovrebbe essere che chi ha sbagliato va a casa. Naturalmente noi qua ci siamo tutti convinti che il nostro sistema ha retto, che il nostro sistema è fortissimo, è bravo, è trasparente, è straordinario, ci ha difeso dagli effetti peggiori delle crisi, poi vedremo. I nostri problemi potrebbero essere diversi, che non siano i subprime come per gli americani o altre cose come i derivati, magari venduti non necessariamente al pubblico finale ma magari agli enti locali, ma di questo magari parleremo, speriamo di non averne occasione. Il problema però è che un sistema non può cambiare profondamente fin quando non cambiano un po' anche i suoi elementi, e quello umano fondamentalmente è l'elemento principale. Noi scherzando diciamo che il futuro è nelle mani degli uomini, la differenza la faranno gli uomini e soprattutto le donne, però a parte questo bisogna crederci. Quelle tra l'altro di cui parlate anche nel vostro libro, perché le abbiamo cambiate nel prossimo, perché non è che ci hanno filato tanto. C'è anche il tascabile burro, il tascabile... No, la canalis della serie do, insomma, sono stata abbastanza radicale. Ma c'è Belen, il teorema di Belen è un pezzo forte di Lorenzo. Chiudiamo questa parentesi, poi la riprendiamo. Marco, concludi con... Ma io concludo, sinceramente, la differenza la fanno gli uomini. Non è credibile una trasformazione del sistema perpetrata e portata fino in fondo da chi c'era prima, c'è durante e pretende di esserci dopo, e soprattutto con le stesse remunerazioni. E allora facciamocele queste domande. Poi, per carità, non c'è bisogno di sangue, però che qualcuno andasse in televisione a dire non sempre tutto va bene, ma che dicesse anche ho sbagliato, insomma, farebbe comodo, sarebbe bello, sarebbe un segnale di cambiamento. Attenzione, se non lo facciamo, e sicuramente pochi lo faranno se non nessuno, il problema è che in America stanno cambiando e noi forse perdiamo l'occasione per farlo. E questo è ancora, come dire, un po' un'analisi rispetto a quello che ci sta accadendo. Vorrei tornare sulla questione dalla quale eravamo partiti in questa parte della nostra conversazione. Come facciamo a trovare il consulente che ci sappia dare, io non dico che sappia gestire al meglio la nostra finanza, perché è chiaro, mi sembra abbastanza scontato che quello sia l'obiettivo principale, Lorenzo, ma quello che ci sappia dare serenità nel momento in cui, come quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, tutto ci sembra perduto e davvero abbiamo addirittura l'impressione certi momenti che lo sportello bancario sotto casa chiude ai battenti da un momento all'altro e con sé tenga tutto il nostro denaro, magari il frutto del risparmio di tutta una vita, nostro, dei nostri genitori, dei nostri parenti? Beh, questa è una bellissima domanda. Intanto è difficile misurare nel breve la bontà di un bravo consulente finanziario, la preparazione e l'autorevolezza. Anche perché purtroppo noi veniamo da una scuola di pensiero ormai più che ventennale, dove il concetto di autorevolezza, il concetto di bravura è sempre basato sul concetto di rendimento. Cioè tutto viene, come dire, ricondotto al risultato finale. Tu mi fai guadagnare molto e tu sei bravo. Purtroppo non si è mai fatta un'attenta valutazione del concetto di rischio. Perché io potrei farti guadagnare il 20% rischiando il 10%, o magari guadagni il 25% ma rischiando il 60%, beh, forse è la prima soluzione preferibile, perché è facile fare delle valutazioni di risultato positivo quando le cose vanno bene. Poi però abbiamo visto, e direi che pur in un rimbalzo recente dei mercati, insomma dalla primavera del 2007 alla fine di febbraio 2009 è stata veramente durissima. Certo. Voglio dire, l'ultimo crollo, non si registrava un crollo del genere sui mercati azionari da oltre 100 anni, per cui insomma non è stata proprio una passeggiata, una cosa normale. Per quanto riguarda alcune regole facili facili, direi che intanto il bravo consulente non si interessa necessariamente solo del patrimonio in quanto tale e non cerca di vendere la prima cosa che ha in borsa o nello scatolone, come spesso avviene nelle fasi stagionali di certi prodotti bancari. Certamente quello che a me piace considerare con il cliente è un concetto di partnership, cioè si crea veramente una relazione, una partnership con il cliente, dove il consulente mette la propria autorevolezza, la propria reputazione, la propria professionalità, le proprie capacità, e comunque il cliente deve svolgere un suo ruolo, che è un ruolo comunque di consapevolezza e di condivisione delle scelte. Ecco, non so se io direi che già in questo concetto c'è una differenza enorme. Il cliente non compra necessariamente un prodotto, anzi entra in un concetto di società di fatto col proprio consulente, si crea una parte, una relazione dove entrambi hanno un ruolo attivo. Certo, il cliente deve fare il cliente, mette i soldi, ma deve mettere la consapevolezza di quello che fa. E questo non è una cosa da poco, perché se tu sei consapevole di quello che fai, quando ti trovi in difficoltà cerchi la soluzione per superare la difficoltà, ma se tu non sei consapevole ti fai prendere o dal panico, certo, o dall'euforia, e comunque svolgi sempre un'azione non razionale, un'azione emotiva che guarda caso è sempre quella sbagliata. La consapevolezza di quello che si fa molto spesso non si ha neanche esattamente la consapevolezza del proprio obiettivo di investimento. Ah, Marco, bravissimo. Perché quello che non è, esatto, il cliente non conosce se stesso, lo si porta, certo, dal consulente il denaro, naturalmente quel, esatto, poco che si ha, e magari si sottovaluta il fatto che nel giro di un paio d'anni si deve comprare casa, oppure si ha bisogno di quel denaro per fare un investimento, e si rischia invece di fare per fare un'altra operazione, invece magari si rischia, che ne so, di mobilizzarlo per un periodo, e smobilizzarlo costa. Marco, quali sono gli errori più diffusi secondo te che continuiamo ancora ostinatamente a fare? Allora, gli errori più diffusi sono tantissimi. Quante ore hai? No, no, allora, guarda, sono le 12:23, alle 12:01 dobbiamo chiudere. No, secondo me c'è un errore, no? Adesso io non voglio insistere con le banche, dopo Lorenzo mi dice falla finita. Sì, la mala banchità. No, ma la mala banchità, adesso sinceramente non vogliamo neanche tanto sorridere, no, perché il momento è difficile, è duro, è crudo, e quindi insomma c'è poco da sorridere. Però c'è un elemento che a me mi ha sempre colpito, no? Leggendo le statistiche, le solite statistiche che pubblichiamo noi giornalisti, un po' di tempo fa avevo letto che l'80% delle persone che avevano smenato, smenato si può dire? Ormai un po' lombardo. Non posso più tornare. Vabbè, indietro, che me l'hai detto. Che c'erano smenato un sacco di danè, un sacco di soldi con le Parmalat, con le Cirio, più le Parmalat e le Cirio, hanno tranquillamente mantenuto il loro conto nelle stesse banche che, bene o male, qualcuno ha detto, avevano un po' provocato questa situazione. Io mi chiedo, la prima cosa che si fa quando si va a comprare due etti di prosciutto dal droghiere, se non te lo dà buono, primo giorno torni e dici, oh, senti, ma che prosciutto mi hai dato? Guarda che... Se succede ancora, non ci torni. No, infatti. Anzi, magari ci passi e dici, io da te non torno più. Allora, io non riesco a capire perché ci sono banche che fondamentalmente... sentiamo ci trattano da numeri, no? Non da clienti perfetti, ma il cliente perfetto non esiste, ma sicuramente da numeri, non da persone, ma da conti correnti. Allora io mi chiedo, se uno ha questo dubbio, se ha questo sospetto, la prima cosa lo verifica, se poi le campane suonano sempre da una parte, dall'altra stiamo sempre a subire, si cambia banca, cioè è la cosa più semplice, ce ne sono migliaia, e allora uno cambia banca. Noi abbiamo una preferenza Non nascosta per le popolari, ma sì, questo non significa che non ci sia il credito cooperativo e per le banche di credito cooperativo, sì, quelle situazioni molto radicate nel territorio. Ma questo non significa che le grandi, esatto, banche commerciali non abbiano bravissime persone, bravissimi manager. Questo non significa. È chiaro che quando sale il numero possono salire i problemi. Poi un altro esempio: i direttori nelle, bravo, grandi banche, lì volevo arrivare, dopo un anno menano le tolle, si può dire menano le tolle? Hai detto anche questo. No, perché c'è il famoso concetto di spersonalizzazione della banca. La banca è un marchio, come il supermercato, idem, no? Invece non tra è tra dettagliante e grande distribuzione. Abbiamo pensato tutti in questi ultimi anni che il conto corrente, che il prodotto finanziario fosse un prodotto di largo consumo. No, non è un prodotto di largo consumo, è un prodotto di consumo, ma sul quale devi essere informato come le medicine. Mm-mm. E purtroppo questa informazione non è avuta. La famosa storiella che ci raccontano, no? Che il sure direttore della banca era lì insieme al farmacista, vero Lorenzo? Insieme al farmacista, insieme al parroco, che la sera bevevano un bianchino e magari se avevi un problema andavi là, tiravi la giacchetta. È una storiella provinciale, noi siamo, io sono umbro, tu marchigiana, quindi insomma, sono cose di casa nostra. Però se uno ci pensa bene, Che un direttore cambi ogni anno in una grande banca è un elemento di disturbo. Esatto, certo, certo, perché nel momento in cui prende un po' coscienza delle caratteristiche della territorialità che gestisce, insomma, sì, questo è anche un bell'aspetto. E tra l'altro noi l'abbiamo visto, io me ne sono occupata parecchio, per esempio banalmente, quando abbiamo parlato tanto delle rinegoziazioni dei mutui, delle sostituzioni, insomma, un direttore che conosce il suo cliente magari più disponibile anche banalmente a fargli un'operazione di questo tipo, nel momento in cui le persone che tu gestisci non le conosci più, è chiaro che ti devi basare sul database, il software, non ci siamo più nei parametri e lei non è nelle condizioni di cambiare appunto le caratteristiche dei prodotti che ha con noi, ma insomma questo è il problema, cioè. È che avere la capacità dialettica di trattativa col direttore Lorenzo non è facile. Noi entriamo in banca, abbiamo l'impressione di entrare sempre in un santuario dove non è possibile alzare la voce e far nessun tipo di trattativa, ma soprattutto negli ultimi tempi c'è stato un eccesso di valutazioni quantitative a scapito di quelle di cui parlavi poc'anzi, cioè le valutazioni qualitative. Tutto ciò nelle grandi banche viene che è il rapporto con la clientela, soprattutto nel credito, viene accentrato in sede centrale, e fondamentalmente il direttore, che era un elemento importante sul territorio, oggi non voglio dire che sia un passacarte, perché da una parte svolge proprio solo una funzione relazionale, le decisioni, soprattutto c'è stato un eccesso dell'utilizzo dei parametri di Basilea 2, questo è un altro tema, soprattutto nei momenti di crisi certi parametri dovrebbero essere un po' più flessibili, un po' più legati alla contestualizzazione del momento, e d'altra parte il direttore e chi per esso purtroppo è un elemento vessato dalle logiche di budget, le logiche di budget di prodotto, dove alla sera ormai si riceve la telefonata del quante ne hai fatte, e le bancari inizialmente sorridevano e anzi arrossivano anche un po' e dicevano quante ne ho fatte, invece poi non è stato spiegato loro che non era la vendita sottinteso, di obbligazioni strutturate, di index link o comunque prodotti ad alta marginalità, alta commissionalità, che tanto servono per il conto economico della banca. Citavi prima Marco Liera e Plus e il mal di budget, che è una rubrica fissa appunto nel inserto del risparmio del Sole 24 Ore. Allora, ci sono alcuni ascoltatori che io adesso non riesco ad iniziare a sentire perché devo sentire invece le anticipazioni del GR Extra Large. Ci sono anche tanti messaggi di congratulazioni e complimenti. Qualche banchiere? Per voi, banchieri ancora non ne vedo, ma adesso li controllo meglio. C'è un ascoltatore, adesso questa voglio sentire se la sapete, che chiede se avete mai sentito parlare della teoria del picco di Abbert, cosa ne pensate? Ma io non ne so niente, per cui questa adesso me la... No, adesso... No, pensateci voi. Cosa mi dite dei Stiamo parlando di comete, chiaramente. Cioè, ovviamente. Cosa mi dite dei nuovi corporate bond? Ovviamente vi voglio far sbilanciare anche un po' sulle tendenze prossime del mercato, e soprattutto c'è un ascoltatore che dice, ma insomma, ma voi cantonate, non avete mai prese nella vostra rubrica? Guarda, e lo ammettono Siamo senza alcun problema. Siamo pieni di cicatrici. Rimettetevi in riga, vi prego, bentornati a Lorenzo Marconi e Marco Fratini, autori di Vaffanbanca, dai bond argentini ai mutui assassini, manuale di autodifesa economica e finanziaria a rendimento garantito. Non è una novità nel panorama dei libri del nostro paese, li avevamo già invitati per questo vero e proprio caso letterario, un bestseller, lo scorso ottobre. Siccome stanno preparando anche Vaffancrisi, così ci siamo fatti non ci siamo fatti mancare anche questa loro presenza pre-vacanziera, magari qualcuno Vaffanbanca Nemmeno noi. Vaffanbanca ancora qualcuno non l'ha letto, se lo porta magari sotto l'ombrellone. C'è anche la versione libro ombrellone. Esatto, allora te la faccio raccontare, visto tutte le belle ragazze di cui parli parliamo. Esatto, perché sono due fior di professionisti, sposati, con prole, ecco. Però insomma, la Canalis, la Seredova, le citate spesso nel libro. Come mai, che cosa c'entrano con la finanza? Marco, ma noi Fratini. Abbiamo sempre avuto questa idea, no, di raccontare la finanza con parole semplici. Allora, Lorenzo scalpita, secondo me quello della Canalis e della Seredova lo deve raccontare lui. Io racconto quello di Belen. Vai. No, allora, la Canalis che mi si è fidanzata con George Clooney in queste ore, anche lì vorrei capire, come dire, l'obiettivo finanziario dell'operazione, se c'è. Lorenzo, a parte questi aspetti insomma di giornale di stamattina, andranno a caffè proprio. Il teorema Belen è più fresco, invece il confronto tra Canalis e Seredova parte da lontano, dal concetto della sindrome dell'insoddisfazione permanente, e questo viene un po' sempre dal concetto di vissuto, dal marciapiede, nel senso che i clienti spesso e volentieri cercano sempre quello che in finanza non esiste, sono sempre alla rincorsa del sacro graal, e invece dovrebbero cominciare a l'erba metabolizzare del giardino sempre, del vicino, sempre più appena guadagnato, guardano l'hit parade del Sole 24 Ore di fine settimana e cercano che i propri titoli siano nella hit parade, se no non sono contenti. Cioè c'è una scarsa concezione di pianificazione finanziaria, comunque legata proprio ai fatti, al proprio obiettivo finanziario, per cui c'è anche qui una spersonalizzazione dell'investimento, invece dovrebbe essere una cosa che insomma va di pari passo. Insomma, noi dovremmo investire come ci vestiamo. Cioè, no, sveliamo anche il mistero per cui abbiamo fatto questo paragone con queste due celebrity, perché se uno esce con la Canalis, noi abbiamo e immaginato poi incontra Sredova, non è che proprio deve considerarsi insoddisfatto, esatto, dell'appuntamento precedente, ecco. Mentre tutti sono magari a casa a guardare Bonolis in pantofole alla TV, insomma. oppure magari ascolta Salva Danai. Avete già il senso della vita, per cui voglio dire, perché non arrabbiate se siete riusciti a uscire. Cioè, poi oltretutto adesso si rivaluta, perché con, voglio dire, si arrabbierà pure, perché dopo Clooney, insomma. Certo. E come mai invece la Belen si è meritata anche questo ingresso nel vostro tascabile, Marco? Ma quella è la parabola del pessimismo, no? Siamo talmente ingobbiti in questo pessimismo leopardiano, avviluppati in questo loop, no, del peggio, che se un operatore, un economista, un uomo della strada incontra la Belen nuda ma con le scarpe, cosa fa? Le critica le scarpe, ecco. Cioè, noi ormai ci siamo spinti talmente oltre il pessimismo, siamo alla disperazione più nera, che se vediamo una bella cosa ci tappiamo gli occhi e guardiamo soltanto il quello difetto, che fa comodo a noi, ammesso che possa essere considerato un difetto. Esatto. Ci sono anche i feticisti, per cui tu sai, no, che c'erano anche delle pubblicità che occhieggiavano i tacchi a spillo, per cui magari qualcuno preferisce così. Allora, io vorrei anche ricordare ai nostri ascoltatori che ci stiamo divertendo molto questa mattina, perché è il tono che è stato utilizzato dal libro, da Vaffanbanca, per spiegare però anche in termini molto semplici molti concetti economici che molto spesso ci risultano indigesti. C'è anche tra l'altro il teorema dell'ascensore, che voglio far raccontare a Marco, il tema di quando crolla la borsa, che riempie le pagine di tutti i giornali. È semplicissimo, il teorema dell'ascensore è facilissimo, e cioè l'ascensore funziona sempre, e cioè funziona anche quando scende. La borsa è la stessa cosa, cioè noi non possiamo scambiare un movimento naturale della borsa per un suo difetto di funzionamento. Cioè, quando scende la borsa fa il suo mestè, perché la borsa di natura sale e scende, è un po' come noi, no? Che a un certo punto siamo giovani e poi invecchiamo, cioè non è che possiamo cambiare la natura delle cose. Poi qui l'impressione che abbiamo è che noi operatori dell'informazione, siamo stati spesso operatori della disinformazione se non della deformazione, e su questo tema secondo me ci vorrebbe un po' più un po' di competenza e di attenzione anche da parte nostra. È vero, è anche un po' quello che sta accadendo in questo periodo. Effettivamente, arrivasse un'altra giornata di borsa con crolli fra il 3 e il 4%, ma dipende da chi c'era in redazione a fare la guardia al bidone, sai, se le borse che conosce sono solo quelle con le letterine intrecciate, vabbè, siamo disperati a quel punto. 800 24 00 24, non ho più ricordato il numero verde, ma potete interagire con noi questa mattina, ma soprattutto con Lorenzo Marconi e Marco Fratini, autori di Vaffanbanca. Anche allora, Luca deve interagire, eh? Sì, Luca che non è contento di questa trasmissione, no, di Luca, stamattina ha detto che addirittura per la prima volta in due anni sono costretto a spegnere. È il cugino del banchiere di cui parlavamo. Luca, ce lo racconti per quale motivo sei così infastidito, se dal tono con cui stiamo così raccontando un po' anche le tendenze dell'economia e della finanza? Ma se no basta accendere la televisione stasera, che sicuramente c'è per tagliarsi le vene. Mi fai dire che comunque spesso il tono Lorenzo dissacrante e il sorriso non significa mancanza di rispetto, perché io credo che una cosa, e lo dico con orgoglio, perché Marco ed io credo che in questi 8 anni, soprattutto di una rubrica popolare come Le Buone Azioni su un settimanale come oggi, per cui voglio dire, io ho più gente che mi legge dal dentista o dal parrucchiere che non in altri luoghi, credo che sicuramente abbiamo fatto tanti errori, io per primo, perché non sono un analista infallibile, spesso mi sbaglio, però credo che certamente non abbiamo mai mancato di rispetto al risparmio in quanto tale e ai risparmiatori, indipendentemente dalla quantità del risparmio di cui si parla. Per cui si può però parlare con tono leggero, ecco, esatto, anche di certi argomenti. Perché, forse questo può anche servire ad avvicinarci un po' di assolutamente, più. Infatti mi hai rubato le parole in bocca, perché volevo dire proprio questo, perché a volte un linguaggio comprensibile è un po' meno, diciamocelo, così autoreferenziale e così lontano da quello che è un po' il nostro modo di vivere la quotidianità tipico della finanza e dell'economia, forse aiuterebbe. No? Mi stanno dicendo intanto i miei ragazzi alla guida tecnica di allontanarvi un pochino dal microfono, grazie. Ma allora, se poi ce ne andiamo proprio, perché no, ma che sordate, abbiamo una velata minaccia. Ma figuriamoci, io vi adoro e lo sapete. Corrado da Trento, lei sta aspettando da tanto, mi scusi, eccoci a lei finalmente. Ci dica, ma lei è infastidito per esempio quando si parla con toni leggeri di tematiche come quelle che affrontiamo questa mattina, presentando un libro, ma in realtà realtà cerchiamo anche di avvicinarvi al tema della finanza. E molto spesso, insomma, è il tabù questo, no? Che non viene. Che ne dice, insomma, lei, Corrado? Dico che, beh, intanto ringrazio i due ospiti, perché effettivamente una volta tanto si parla anche di psicologia, che a volte fa bene, nel senso che nel mio caso chiaramente l'apporto che ho ricevuto dal mio consulente finanziario di una banca italiana importante è stato fondamentale dal punto di vista soprattutto psicologico, perché nel momento in cui i mercati fanno queste cose allucinanti, chiaramente uno si deve anche un pochino rivolgere a chi ne capisce magari qualcosina di più. Ecco, una critica che posso muovere forse a voi in senso radio, sì, è che per esempio quando si parla di borsa, perché mi pare che fondamentalmente non si parla solo di questo, però si parla anche di questo, bisogna parlare un po' più a lungo termine, nel senso che è chiaro che, come diceva Marco prima, l'ascensore va su e giù, ma forse dire che nell'arco temporale di 10 anni, 15 anni la cosa comunque redditizia, nel mio caso è questo il tipo di, diciamo, di lavoro che ha fatto il consulente finanziario con il sottoscritto. La ringrazio molto, Corrado, per la sua testimonianza. È anche vero che, adesso non so chi mi vuole rispondere dei due, sicuramente il concetto del lungo periodo lo dobbiamo sempre tenere a mente, ma questa è una crisi che il lungo periodo l'ha cancellato completamente, Marco, perché con la borsa siamo ritornati a marzo, adesso abbiamo recuperato, ma a marzo eravamo tornati indietro con le lancette al 1997. Diciamo che questa ha cancellato molto di più del tempo. Ha cancellato anche, se vuoi, delle certezze che avevamo, che forse pensavamo di avere, ha cancellato, insomma, quando fra qualche anno ci diranno di questa crisi, ammesso e non concesso che qualcuno ce lo dirà, è chiaro che è questa svolta epocale. Però io anche parlarne così, a me ogni tanto dà quasi l'allergia, no? Mi vengono le bolle, se ne parla quasi come di un mostro. Effettivamente si è comportata da mostro, no? Poi c'erano quelli che all'inizio la mettevano sempre in contrapposizione con il 29 e andavano con questa acquolina in bocca, no? Quasi, sai, sembravano Draculini con il fiottino di sangue che usciva dalle labbra. Buddy che vi scrive: caro Ciao Marconi Buddy. E fratini, cosa diciamo a tutti quelli che dicevano che avremmo visto un nuovo 29 in borsa, vedi? Che qualcuno ci ritorna. A parte che è andata peggio. Cioè, ma le cose non sono comparabili. Se pensiamo che adesso noi veramente andiamo in banca come si va al supermercato, nel 29 questo non accadeva. L'America sicuramente era molto più ricca di noi, aveva molte più opportunità. Cioè, noi adesso abbiamo visto delle situazioni inedite, ma inedite soprattutto perché siamo uomini del tempo moderno, viviamo nell'accelerazione del tempo storico. Un mese di adesso sono probabilmente 2 anni del 29, cioè ragioniamo per favore anche in questo su questi livelli, ecco. Poi io non sono un esperto economista, quindi non dico altro. Tornando sul concetto di tempo, noi non possiamo dimenticare che comunque gli elementi che caratterizzano una pianificazione finanziaria devono necessariamente sempre essere il rischio, il rendimento, che deve essere figlio del rischio e non viceversa, e necessariamente il tempo. Poi è chiaro che non bisogna ricondurre al concetto di tempo troppi alibi e troppe situazioni, ma certamente questi sono i tre elementi su cui bisogna costruire un'allocazione di un portafoglio. Luca dalla provincia di Varese invece ci fa tornare ancora sui problemi del sistema bancario. Luca? Sì, buongiorno. Buongiorno anche a lei, benvenuto. La mia considerazione era questa, che uno dei veri problemi, secondo me, è il fatto che non esista un negozio dei prodotti finanziari, nel senso che se io vado alla mia banca, logicamente chi mi trovo di fronte dirà che il miglior prodotto per me è quello che vende lui. Probabilmente a volte è vero, ma non è sempre così. Diciamo che nel 90% dei casi non lo è. Così almeno siamo un po' più... Infatti, e quindi credo, secondo me, una buona cosa sarebbe una figura che guadagna indipendentemente da quello che mi vende, e quindi forse venderà veramente quello che più è giusto per le mie caratteristiche. Luca, io la ringrazio. Allora, da questa sua riflessione introdurrò adesso, dopo i suggerimenti per chi è in viaggio, il tema della consulenza finanziaria indipendente, che sta andando tanto di moda da qualche tempo a questa parte e che però ancora è molto difficilmente disciplinata dal punto di vista legislativo, quindi anche questa nuova figura professionale fa un po' di fatica ad avanzare nel nostro paese, i contrasti non mancano. E intanto vi leggo anche perché vi state girando tutti e due dall'altra parte. Bolle di sapone cinesi contaminate. Sì, è un titolo del tuo telegiornale. Cioè, siamo proprio arrivati 2007. Al fondo della crisi, cioè anche le bolle di sapone contaminate. Cioè, e sti cinesi, ci stanno ingoiando. Grande libro, io che sono un promotore finanziario, l'ho consigliato ai miei clienti, ci racconta Gennaro da Vicenza, che salutiamo con affetto. Si può portare i titoli a casa? Questa non l'ho capita, adesso la interpreto. Sentite, no, rimettetevi le cuffie adesso in borsa, però vi faccio spendere un po' di considerazioni, non altro, non vi preoccupate. Metti disclaimer però, eh. Allora, è ancora Buddy che qua oggi ci ha veramente travolto di messaggi. Quest'anno nessuno l'ha chiamato, ma il rally estivo è arrivato. Ora per i gestori il grande dilemma: andare in vacanza o rischiare di giocarsi un super rialzo. Lorenzo Marconi, allora diamo un po' qualche indicazione sui mercati. Tutto quello che abbiamo visto dai minimi di marzo ad ora, quindi questo bel recupero che i mercati finanziari sono riusciti a mettere a segno, un presagio di una capacità, di una possibilità di mandare veramente a quel paese la crisi a settembre, come voi suggerite, non so che cosa fate nel libro di prossima uscita, o c'è ancora qualche brutta sorpresa secondo te che ci aspetta? Beh, allora intanto secondo me c'è un po' una distonia, una simmetria tra quella che è la situazione, direi, di breve nel mondo della finanza rispetto alla situazione economica. Noi diciamo che tutti i giorni siamo bombardati, ma con realismo, da una serie di notizie legate all'economia, insomma disoccupazione in aumento, i dati macroeconomici sono decisamente contrastanti, anche se comunque il mercato immobiliare, e parliamo di quello americano chiaramente, non so, parliamo che tu di sorridi, quello italiano, esatto, che no. Perché c'è una domanda anche su questo, ma Zunino lo lascerei, però, tanto per non fare nomi, no, lasciamolo stare oggi, che voto a Santa Giulia, non perdetevi Bancaneve e i sette nani nel prossimo capitolo, perché insomma i nani sono imperdibili. Molto devoto a Santa Giulia, era il più religioso dei nani, assolutamente, no? E beh, torniamo i nani trovano sempre da Bancaneve qualcuno che li finanzia, no? E tornando alla borsa, beh, direi che intanto ci siamo goduti un bel rimbalzo. Onestamente io non me la sento di dire che in questo momento sia partito il rialzo tipico di un'inversione di tendenza che proseguirà. I presupposti fondamentali, diciamo, non sono ancora convincenti. Ecco, io rimarrei comunque in una sorta di equilibrio. Quello che in questi mesi, per esempio, ho fatto con la mia clientela, pur avendo avuto la fortuna anche di essere abbastanza liquido nei tempi negativi, e lo dico con molta onestà e molta umiltà, io a settembre dell'anno scorso comunque ho ricominciato a ripesare il mercato dell'equity, il mercato delle azioni. In effetti ho un po' anticipato, perché comunque pensando che il mercato era già crollato del 60% su certi valori fondamentali, soprattutto certi titoli industriali, mi sembrava comunque interessante. Poi abbiamo avuto la fortuna di star fuori dal crollo del petrolio, non siamo entrati sui finanziari, per cui in qualche modo ci siamo barcamenati. Ma in questo momento io, per esempio, ho visto che i governativi non rendono tanto, e lo dico sempre, rispettando il proprio profilo di rischio e rispettando di obbligazioni, sì, di Stato, titoli di Stato, sì, e rispettando il sano criterio della diversificazione, oggi ho visto dei rendimenti dei bot veramente ormai prossimi allo zero. Eppure le aste del tesoro sono ancora molto ben frequentate, ma perché comunque viene considerato un parcheggio di liquidità, parcheggio. E poi anche c'è un criterio di sicurezza legato appunto alle obbligazioni governative, alle obbligazioni di Stato. Io però ho cominciato piano piano ad aumentare il peso dei corporate bond, magari scegliendo dei fondi, perché comunque dal punto di vista, non dobbiamo fare delle analisi di rischio solo dal punto finanziario, ma anche dal punto di cosiddetto rischio di default, il rischio di credito, cioè il rischio di fallimento, per cui più andiamo a investire in elementi rischiosi, più la diversificazione, il criterio della diversificazione è necessario e fondamentale. Ci sono state anche qualche emissioni di convertibili, pur in un mercato ancora molto di nicchia e non estremamente diffuso, però ecco, chi volesse in questo momento, io me l'aspettavo di più, per esempio, di convertibili, sì, in questa fase. Però che in cosa questo sono momento, che cosa stiamo parlando, tra l'altro? Beh, obbligazioni convertibili sono obbligazioni che danno una cedola, danno un rendimento, ma alla cui scadenza, se il prezzo di conversione diventa conveniente per il possessore delle obbligazioni, queste obbligazioni diventano azioni, per cui ci trasformiamo da prestatori di denaro, per cui da creditori dal punto di vista obbligazionario, a soci del soggetto per il quale abbiamo acquistato questo tipo di prodotto, di servizio, di bene finanziario. Per cui ripeto, io non andrei a sovrappesare in maniera ancora decisa il comparto azionario, però piano piano in questo momento direi che non credo sia neanche il caso di alleggerirlo, per cui ripeto, comprare qualche buon titolo, ecco, in questo momento magari mi rivolgerei più a titoli cosiddetti value, modello Warren Buffett, per capirci, per cui titoli che possono esprimere una buona potenzialità di rendimenti, di cedole e di dividendi futuri, piuttosto che andare su temi speculativi, perché se il mercato torna indietro, certamente un titolo altamente speculativo, il cosiddetto titolo growth, cioè quello che punta sulla crescita del capitale piuttosto che sui rendimenti dei dividendi, certo è più come dire, sensibile a un concetto di beta, cioè a un concetto di esposizione nei confronti del mercato, per cui essere ancora piuttosto equilibrati in questo momento sia preferibile, ecco, scegliere titoli più solidi e andrei invece sugli aspetti speculativi quando magari le acque saranno un po' meno agitate. Davide della provincia di Reggio Emilia ci vuole fare una considerazione su un tema di cui parlavamo casualmente prima di iniziare la nostra trasmissione. Davide, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Io volevo solo segnalare che io sono un promotore finanziario, consulente finanziario iscritto all'albo di promotori. Volevo solo segnalare che la nostra associazione, l'ANASP, sì, ha intrapreso un progetto da portare nelle scuole, nelle terze e quarte superiori, proprio di pianificazione finanziaria e previdenziale a livello individuale e familiare. Io pensavo che, siccome partecipo a questo tipo di discorso, che possa essere una cosa sicuramente fondamentale a partire dalla base, cioè a partire dalle scuole, e insegnare ai ragazzi che dopo la scuola c'è il lavoro, c'è il reddito e come gestire al meglio appunto la propria pianificazione finanziaria e previdenziale. Certo, ma lei Davide, noi tra l'altro conosciamo piuttosto bene questo progetto, sono in contatto con l'ANAS, avevamo in mente anche di farlo raccontare all'associazione sicuramente alla ripresa dell'anno anche di Salvadanaio da settembre. Davide, ma quello che mi stavo chiedendo è, lei che fa il promotore finanziario, quindi si interfaccia ogni giorno con la sua clientela, quali sono, come dire, le problematiche più diffuse in termini di scarsa conoscenza non dico della terminologia finanziaria, quando proprio dei prodotti che lei comunque suggerisce e vende, immagino, al suo cliente, quali sono le difficoltà più forti che riscontra? Visto che riconosce che c'è un problema proprio di scarsa conoscenza, no? Finanziaria. Sì, il problema è proprio quello, il problema è che c'è una scarsa conoscenza, cioè proveniamo da un mercato che negli anni 80 proponeva i titoli di Stato ad alto rendimento, per cui il problema non si poneva. Io andavo in banca, facevo il mio titolo, prendevo il 12, il 15, il 18%, ero già a posto. Adesso il mercato è cambiato già da 20 anni a questa parte e quindi si pone il problema di trovare delle fonti di investimento differenti. Chiaramente, come dicevano i suoi interlocutori, non prive di rischio, quindi i rischi vanno sempre ben calcolati e comunque, ripeto, il problema più grosso è proprio quello di portare la cultura finanziaria. Davide, la ringrazio molto. Marco, tra l'altro, la considerazione di Davide in presta al fianco ad un'altra che vorrei farvi io è che il problema è... Secondo me abbiamo una tale offerta di fronte a noi che comunque, come voglio dire, il muratore di turno che fa tutto un altro lavoro, l'operaio, ma come fanno questi poveretti a, come dire, anche ad orientarsi in un'offerta che è vastissima in questo momento? La banca che ci appioppa di tutto, ci appioppa, utilizzo un brutto termine, però voglio dire... Appioppa. È così... No, perché è brutto. Se mi candido a essere la terza firma del libro. No, a parte questo, cioè voglio dire, una povera persona che fa tutto un altro lavoro nella sua vita... sicuramente deve migliorare la sua educazione finanziaria, ma deve essere capace anche un mestiere che tutto sommato è abbastanza vicino a certe cose, ma dobbiamo stare comunque attenti. Quindi io non nascondo che nei giorni funambolici tra settembre e ottobre mia madre mi chiamava 7 volte al giorno. Che devo fare? Sì, insomma, mia mi ha chiesto, è mia madre, io sono suo figlio, eppure qualche volta era in difficoltà a spiegarle. C'è il problema, vedi? Mi dice, ma la pensione di tuo papà è sicura? Io mi sono sentita chiedere questo. E vedi, io ritornando anche a quello che diceva il nostro ascoltatore Davide, mi pare, il bravo promotore, c'è una cosa fondamentale però quando si parla di cultura finanziaria, che poi in realtà è uno anche dei nostri vascelli, no, di traversata, è il linguaggio. Allora, se continuiamo a usare sempre lo stesso linguaggio per spiegare anche cose nuove, secondo me non facciamo nessun passo avanti. Ora, io non voglio dire che si debba arrivare per forza al dissacrante come facciamo noi, all'ironia sottile, alla possibilità che abbiamo magari con il sorriso di dire delle cose che non facilmente arrivano e a destinazione. E anche resettare tutto è impossibile. Sì, però questo sforzo lo dobbiamo fare. Cioè, io penso all'ANASFA, penso a Patti Chiari. Io ho visto ultimamente dei siti che peraltro sono costati tanto in termini di impegno, no, di didattica, però ancora siamo lontani dalla possibilità che la zia Maria capisca. Non so se mi sono spiegato, però ancora siamo qui a menarcela e forse a capire noi, ma dobbiamo fare quello sforzo in più, cioè il periodo lo richiede, deve capire la zia. Alla fine non so se ci riusciremo, però dobbiamo andare a pescare lì, è giusto andare nelle scuole, è fondamentale, ricordando però che spesso i genitori di quei ragazzi che vanno a scuola fanno i banchieri, fanno gli avvocati, fanno i commercialisti, quindi io adesso non la farei soltanto una questione di cultura finanziaria, di didattica, del linguaggio, ma ne farei soprattutto una questione di valori, attenzione, valori, non valutazioni matematiche, sì, valori, quelli che ci insegnava la nonna. per intenderci, no? Mm-hmm. La zia Maria. È da lì che è partita la crisi. Non è partita da una distorsione, se vuoi, del linguaggio, da una scarsa concezione sul prodotto finanziario. È partita anche da lì, ma è partita soprattutto dal fatto che qualcuno non applica i valori fondamentali della nostra vita. Il concetto, se vuoi, scusa, non voglio fare l'evangelico, non però non vendere tu... agli altri quello che non compreresti. Ecco, parliamone. Molto molto chiara, certo. Ecco, parliamone. E infatti, allora, io non ho molto più tempo. E poi si arriva chiaramente al linguaggio, si arriva alla cultura, si arriva alla didattica, alle dispense che sostituiranno, speriamo, le agendine, dove l'unica cosa che impariamo è il fuso del Tagikistan. Però quello le banche però le regalano. Anche i calendari delle chiese e dei monumenti. Allora, no, quest'anno andavano visto anche ho un minuto e mezzo di tempo. Regalatemi in anteprima assoluta, una me l'avete anche già detta, Bancaneve e Sette Nani, un'altra piccola pillola in anticipo mondiale. Il titolo del capitolo Fiat. L'immatricolata Concezione. Benissimo, su Alitalia ci siete ritornati? Sì, per forza, è necessario. Con tutte queste hostess a spazio. Alitalia chi? No, dico stamattina, come è bella perché c'era questa notizia sui giornali, 13 nuove rotte, sì, però se devi andare a Berlino devi passare per Parigi. Per Parigi, no, esatto. Di che cosa stiamo parlando non ho ancora capito. Allora, io ringrazio tantissimo per essere stati con noi Lorenzo Marconi e Marco Fratini, autori di Vaffanbanca e presto autori anche di Vaffancrisi. Noi speriamo di lasciarcela alle spalle davvero al più presto, temo che non sarà così, ancora qualche doloretto e qualche frattura la dovremo sopportare, però magari con voi lo faremo con il sorriso sulle labbra. Vi aspetto, allora vi rinvito sicuramente. Anche Luca deve esserci stavolta, però. Luca che per due anni adesso ha detto che non ci ascolta più. Esce il libro Vaffancrisi il 2 settembre, e quindi a metà settembre ci risentiamo, allora non appena saremo sicuri che tutti i nostri ascoltatori saranno rientrati dalle vacanze per potervi naturalmente ascoltare. In bocca al lupo e buone vacanze. Grazie, buone vacanze. Salva Danaio torna domani, buona giornata a tutti.